Buonasera, ben ritrovati, sono Livia Napolitano e questo è Nottetempo in Safar, viaggio a chilometro zero che da un paio di settimane, trascinato dalla Sciabica, la rete di solidarietà di Fabrica, è arrivato sino a Lampedusa per raccontare le storie dei sopravvissuti di chi a Lampedusa ci vive e di chi tuttora lì resta. Io sogno Costantino Baratta, ho 56 anni e non sogno un eroe. Rapite un corritore umanitario ora, oppure ci facite a caricare i 300 morti in coscienza. Costantino Baratta è nato a Trani nel 1957. Quando si è innamorato di sua moglie, si è innamorato anche della sua isola ed è rimasto a Lampedusa. Dal 1976 è un pescatore. Nei giorni del naufragio del 2011 ha aiutato Tarak, un migrante tunisino, a ricongiungersi con i parenti in Svezia. Il 3 ottobre 2013 ha salvato 11 persone dalla morte in mare. Il suo pizzino è rivolto ad Enrico Letta, primo ministro, e Angelino Alfano, ministro dell'interno. Io sono Costantino Baratta, ho 56 anni e non sono un eroe. Aprite i corridoi umanitari adesso, oppure ce la fate a caricarvi altri 300 morti sulla coscienza. Alle 7:20 abbiamo tirato le cime a Nika. Si chiama così perché la barca di 5 metri è piccola, è Nika. Dovevamo cominciare la battuta di pesca. In mare, invece che la linea dell'orizzonte, abbiamo visto gente che si sbracciava, gente che cercava aiuto, disperazione che urlava. Al primo che ho tirato su ho dato l'unica asciugamano che avevo perché tremava come una banderuola. Ci hanno detto delle altre barche. Non pensate ai morti, salvate i vivi. I vivi, questioni di minuti, se li mangiava il mare. Erano tutti maschi e tutti nudi, ci scivolavano dalle braccia per la nafta, tutti coperti di benzina erano. Quando Nika era piena abbiamo cominciato a navigare verso riva. Tra i corpi che andavano a fondo ne ho visto uno che si muoveva. L'ho tirato su, era una ragazza ed era viva. Quando l'abbiamo stesa sul legno tossiva nafta, è stata la prima che abbiamo consegnato al pronto soccorso. Sono logorato come quest'isola. Mi ricordo il primo sbarco 20 anni fa, quando trovavamo monete, documenti stracciati e vestiti, mentre facevamo il bagno. Questa gente che si affida al mare, anche quando è in tempesta, sa che è meglio morire che tornare indietro. Vengono da terre dove hanno visto tutto e tutto gli è stato fatto. L'unica cosa che è cambiata da quei primi sbarchi è che sono raddoppiati i contingenti militari. Poi niente più è cambiato. Non tolgono nemmeno le carcasse dei barconi dal centro. Un cimitero a mare e uno a terra. Anche quando non ce la faremo più, quando su quest'isola non rimarrà più niente, noi continueremo ad aiutarli ugualmente. Ma se ci date un'altra medaglia, sarò io il primo a rifiutarla. Ho dovuto raccontare questa storia a un parlamentare svedese, a una TV norvegese, a giornalisti tedeschi. Cascavano dal pero, non sapevano niente. Ma se l'hanno saputo solo ora, di cosa stanno discutendo al Parlamento europeo? Io comunque volevo ritrovare quella ragazza. L'ho cercata al campo di accoglienza e niente, al pronto soccorso, niente. Poi c'è stata la cerimonia funebre all'hangar. Forse lì la trovo, mi sono detta. L'ho riconosciuta dall'anello che portava al dito. Ce l'aveva anche il giorno del naufragio. Lei invece mi ha riconosciuto subito e si è buttata al collo, come quel giorno in mare.